Ad alta voce. Valerio Aprea legge La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl. Traduzione di Riccardo Duranti. Mike TV s'era eccitato ancor più di nonno Joe nell'assistere alla teletrasmissione della stecca di cioccolato. Ma signor Wonka, chiese subito, con questo sistema lei riesce a trasmettere anche altre cose? Per esempio i fiocchi d'avena? Oh, santa zietta! Esclamò il signor Wonka. Non menzionare nemmeno quelle schifezze in mia presenza! Lo sai di cosa sono fatti i cosiddetti fiocchi d'avena? Sono fatti di quei riccetti di legno che escono dai temperini quando si fa la punta alle matite! Ma volendo, si possono teletrasmettere anche loro come ha appena fatto con il cioccolato! Insisté Mike TV. Certo che sì! E le persone? Anche le persone possono essere teletrasmesse. Lei saprebbe mandare una persona in carne e ossa da una parte all'altra con lo stesso sistema. Una persona? Ma ti ha dato di volta il cervello? Ma lei lo potrebbe fare, sì o no? Santo cielo, ragazzo! Non lo so mica! Però, a pensarci bene, sì, penso che sia possibile. Certo che si potrebbe. Però io non mi arrischierei mai. Potrebbero esserci conseguenze spiacevoli. Ma appena lo aveva sentito dire «Sì, penso che sia possibile, certo che si potrebbe», Mike TV aveva spiccato un salto ed era schizzato dall'altra parte della stanza dove era sistemata la telecamera. «Guardatemi!» gridava mentre correva. «Sarò la prima persona al mondo a essere teletrasmessa!» «No, no, no, no!» urlò il signor Wonka. «Mike!» strillò la signora TV. «Fermati! Torna subito qui! Ti ridurrai in tanti piccoli pezzettini!» Ma ormai era impossibile fermare Mike TV. Quel matto di un ragazzo continuò a correre e, arrivato davanti alla telecamera gigantesca, con un salto s'attaccò alla leva d'accensione, rovesciando i tecnici umpa lumpa di qua e di là. «A tra poco, amici!» esclamò, mettendo in funzione la telecamera e balzando subito dopo proprio davanti al suo potente obiettivo. Ci fu un altro lampo abbagliante. Poi scese un gran silenzio. La signora TV scattò in avanti, ma si fermò pietrificata in mezzo alla stanza e rimase lì, immobile, a fissare il punto esatto dove poco prima si trovava suo figlio. Poi spalancò una gran bocca rossa e gridò: «È sparito! È sparito!» «Santo cielo, è sparito davvero!» esclamò il signor TV. Il signor Wonka si fece avanti e con la massima gentilezza mise una mano sulla spalla della signora TV. «Ora speriamo che tutto vada bene», disse. «Dobbiamo pregare affinché il suo ragazzo esca sano e salvo dall'altro capo del sistema». «Mike! Mike!» strillò la signora TV mettendosi le mani nei capelli. «Figlio mio, dove sei?» «Te lo dico io dov'è», rispose suo marito. «In questo momento sta vorticando sopra le nostre teste, ridotto in milioni di minuscoli frammenti!» «Non dire certe cose!» disse la signora tra le lacrime. «Dobbiamo stare attenti allo schermo ora», consigliò il signor Wonka. «Può comparire da un momento all'altro!» Il signore e la signora TV, nonno Joe, il piccolo Charlie e il signor Wonka si raccolsero tutti attorno al televisore e fissarono tesi lo schermo, che però restava assolutamente vuoto. «Ci sta mettendo un sacco di tempo!» disse il signor TV, asciugandosi il sudore dalla fronte. «Poveri noi! Poveri noi!» sospirò il signor Wonka. «Speriamo tanto che non si perda qualche pezzo per strada!» «Come sarebbe a dire?» chiese preoccupato il signor TV. «Non vorrei allarmarvi troppo», rispose il signor Wonka, «ma a volte solo una metà circa dei frammenti riesce ad arrivare nell'apparecchio ricevente. È successo anche la settimana scorsa. Non so che cosa sia capitato, ma fatto sta che solo mezza stecca di cioccolato è uscita dallo schermo». A quelle parole, la signora TV lanciò un urlo inorridito. Poi, con qualche difficoltà, riuscì a dire: «Questo significa che solo una metà di mio figlio verrà fuori dallo schermo!» «Speriamo almeno che sia la metà di sopra!» disse il signor TV. «Fermi tutti!» esclamò il signor Wonka. «Guardate lo schermo! Qualcosa si muove!» Infatti, lo schermo aveva improvvisamente cominciato a tremolare. Poi apparvero delle onde orizzontali. Il signor Wonka regolò una manopola e le onde scomparvero. Pian piano lo schermo cominciò a illuminarsi. «Eccolo che arriva!» gridò il signor Wonka. «Sì, sì, è proprio lui! È tutto d'un pezzo!» si informò ansiosamente la signora TV. «Non ne sono del tutto sicuro, è ancora presto per dirlo!» Dapprima un po' sfocata, poi con contorni sempre più netti, l'immagine di Mike TV apparve sullo schermo. Era in piedi e agitava le braccia verso gli spettatori con un sorriso che gli tagliava in due la faccia. Ma è diventato una specie di nanerottolo!» esclamò il signor TV. «Mike!» strillò la signora TV. «Stai bene? Ti manca mica qualche pezzo?» «Ma non diventerà più grande di così?» chiese il padre. «Mike! Sono la mamma! Ti prego, dimmi qualcosa! Dimmi che stai bene!» Una vocina sottilissima, non più forte dello squittio di un topo, uscì dall'apparecchio televisivo. «Ciao mamma! Ciao papà! Guardate che forza! Sono la prima persona che sia mai stata teletrasmessa!» «Acchiappatelo, svelti!» ordinò il signor Wonka. La signora TV allungò una mano e afferrò la figurina che si agitava sullo schermo. «Evviva!» esclamò il signor Wonka. «È tutto intero! Non gli è successo niente!» «E lei lo chiama niente, questo?» ribatté la signora TV, scrutando preoccupata il ragazzino in miniatura che le scorrazzava allegramente sul palmo della mano, agitando in aria le sue pistoline giocattolo. Di sicuro non era più alto di un paio di centimetri e mezzo. «Si è come ritirato!» osservò il signor TV. «Certo che si è ritirato!» rispose il signor Wonka. «Che cosa si aspettava?» «Oh, che tragedia!» bofonchiò tra le lacrime la signora TV. «E adesso che facciamo?» Il signor TV aggiunse. «Mica possiamo rimandarlo a scuola in queste condizioni! Lo calpesterebbero subito! Lo schiaccerebbero!» «Non potrà più fare niente!» esclamò la moglie. «Ma sì, ma sì!» squittì la vocina di Mike TV. «Posso ancora guardare la televisione!» «Mai più!» ruggì il padre. «Appena arriviamo a casa, butterò il maledetto televisore dalla finestra! Ne ho abbastanza di quell'arnese infernale!» Non appena udì queste parole, il piccolo Mike TV piantò una scena di quelle tremende. Cominciò a saltare su e giù sul palmo della mano della madre, urlando e strepitando, e tentò perfino di morderle le dita. «Voglio guardare la televisione!» strillava. «Voglio guardare la televisione! Voglio guardare la televisione!» «Qua, dammelo qua!» disse il padre, prendendo il minuscolo ragazzo e ficcandoselo nel taschino della giacca. Quindi prese un fazzoletto e glielo infilò sopra, chiudendo il taschino. Dall'interno del taschino giungevano urla e strepiti attutiti, e il tessuto era scosso dai disperati tentativi del piccolo prigioniero di liberarsi. «Oh, signor Wonka!» singhiozzò la signora TV. «Che possiamo fare per far ricrescere il nostro ragazzo?» «Beh!» disse il signor Wonka, accarezzandosi il pizzetto e fissando assorto il soffitto. «Vediamo un po'. Certo, non è una cosa facile, ma di solito i ragazzi di quest'età sono abbastanza elastici. Li si può allungare come si vuole tirandoli. Allora, beh, sì, potremmo metterlo in una macchina speciale e allungarlo a volontà. Io ne ho una che adopero per collaudare la capacità di allungarsi della gomma da masticare. Forse con quella lo potremo riportare alle dimensioni originarie.» Oh, la ringrazio! Sospirò la signora TV. Non c'è di che, cara signora. Quanto crede che si riuscirà ad allungarlo? Chiese il padre. Oh, anche qualche chilometro, volendo, chissà. Ma allora si assottiglierebbe troppo? Si rende conto che qualsiasi cosa si assottiglia se la si allunga? Vuol dire come succede con la gomma da masticare? Esattamente! Ma quanto si assottiglierebbe il mio bambino? Chiese ansiosa la madre. Non ne ho la più pallida idea, confessò il signor Wonka. E comunque non è una cosa molto importante, dopo tutto, perché lo faremo subito ingrassare di nuovo. Basterà dargli una tripla dose del mio fantastico cioccolato super vitaminico. Il cioccolato super vitaminico contiene enormi quantità di vitamina A e di vitamina B. Inoltre contiene vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina F, vitamina G, vitamina I, vitamina J, vitamina K, vitamina L, vitamina M, vitamina N, vitamina O, vitamina P, vitamina Q, vitamina R, vitamina S, vitamina T, vitamina U, vitamina W, vitamina X, vitamina Y e incredibilmente a dirsi persino la vitamina Z. Le uniche due vitamine non contenute nel mio cioccolato super vitaminico sono la vitamina H, perché fa diventare muti come una H, e la vitamina V, perché fa vomitare. In compenso però c'è anche una piccolissima dose della più rara e straordinaria vitamina al mondo, la vitamina Wonka. E quella che effetto gli farà? Chiese il signor TV con una punta di apprensione. Gli farà crescere le dita dei piedi finché non saranno lunghe come quelle della mano. Oh, no! Esclamò la signora TV. Non sia sciocca, signora! È una cosa utilissima! Così riuscirà a suonare il piano anche con i piedi! Ma signor Wonka! Basta discutere, prego! E così dicendo, il signor Wonka si voltò e schioccò tre volte le dita. Subito arrivò un Umpa Lumpa che rimase in attesa di ordini. Il signor Wonka gli diede un foglietto su cui aveva scritto qualcosa e disse: «Seguite alla lettera queste istruzioni, mi raccomando, alla lettera. Il ragazzo è nel taschino della giacca del padre. Via, andate subito! Arrivederci, signora TV, arrivederci, signor TV. Vi prego, non abbiate quell'aspetto così preoccupato. Sono sicuro che tutti i nodi verranno al pettine. Ve l'assicuro, tutti i nodi!» In fondo alla stanza, gli Umpa Lumpa che lavoravano attorno alla gigantesca telecamera avevano già cominciato a suonare i loro piccoli tamburi e a danzare seguendo il ritmo della musica. «Eccoli che ricominciano!» disse il signor Wonka. «Temo proprio che non sia possibile impedirgli di cantare!» Il piccolo Charlie strinse forte la mano di nonno Joe e i due rimasero ad ascoltare la canzone degli Umpa Lumpa al fianco del signor Wonka al centro della stanza illuminata a giorno dai riflettori. E questo che segue è il testo della loro canzone. Perché un bambino sia ben educato, una cosa importante abbiamo imparato. Non permettete mai e poi mai, onde evitare un sacco di guai. Che il miserello se ne stia fermo davanti a un qualche schermo, anzi consiglio più pertinente sarebbe non installare per niente questi apparecchi che rendono cretini sia i più grandi che i più piccini. In tutte le case che abbiamo visitato c'era un bambino seduto impalato, lo sguardo lustro la bava la bocca davanti a una buffa scatola sciocca. Taluni possono stare per ore muti guardando il televisore, lo sguardo fisso, l'aria di notti fuori dalle orbite, gli escono gli occhi una volta. comincia esposizione ai raggi della televisione. Non si è mai chiesta esattamente che effetto esercita sulla mente. Finge guadagna sua creatura quell'invenzione contro natura. Fatto ti sensi l'anestesia, uccide tutta la fantasia, riempie la mente di cacottiglia e fa venire gli occhi da triglia. siamo scordati, ma siamo in attesa dei risultati per constatar se funziona la cura. Valerio Aprea ha letto La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl, regia di Riccardo Amorese, a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.